siamo le storie. Essere diversi vuole dire esserci migli ad altri. Non illuderti, non hai risposte, non sei speciale, non sei stato graziato. Surreale la vita, ora senti che i tuoi sforzi sono stati vani. Le tue parole sono già state scritte da altri. Ti sei ingannato, ti sei tradito, ti sei ingannato. La tua astuzia non va già alla vittoria. Qua c'è un muro e l'astuzia su di esso ti farà tremare. Sono pronto ad ammazzare, non sono abituato a parlare con chi mi capisce. Il tuo udito si spengerà quando capirà la marcia realtà. I tuoi occhi rigetteranno sangue quando ti vedrai sconfitto. Il tuo nemico non sono io, il tuo specchio non focalizzerà l'enigma. Ma sono chiaro, la mia essenza è pura. Se vuoi farla finita ci sarò, ci sarò, ci sarò, ci sarò. Quindi basta lagne, se vuoi farla finita ci sarò, ci sarò, ci sarò. Quindi basta lagne, se vuoi farla finita ci sarò, ci sarò, ci sarò. Se vuoi farla finita ci sarò, ci sarò, ci sarò, ci sarò, ci sarò.